come si chiama, Carmen, qui mi arriva un segnale di 5-6. Assolutamente. Un attimo. Che è che hai fatto un basso? Ciao, buonasera, Natalino, so. Dici che tu remo normali. Un bene, sì. Io me ne guarderei bene. E però te ho fatto staccare la corrente, bello bene. È un po' uomo, è Natalino, mi vuole sovraccavallare, come diceva Paoletto. Però ti ha dato fastidio, lo sai, fra. Beh, c'è anche la terra sul tetto, Natalino. Vabbè, non è messo molto bene, ma non come la mia, però. Io, quando ero a Rubasso, ti ho dato mattana, l'ho sentito. Sì, sì, beh, siamo lì, eh. Siamo un tiro di schioppo, anzi, sa meglio lui di antenna che io. Se io avessi sul tetto un'antenna come quella che c'ha Franco, qua, non lo so pensare com'è. La mia è un'antenna del cavolo, Brooke. Di cos'è? Di legno, di cos'è? Di plastica, Di plastica, non la R. Sta attaccando allo stendino, non hai capito, Natalino? Si ha messo lo stendino e ha piazzato l'antenna. Beh, senza scherzare, ce l'avevo così qualche anno fa, al posto di... avevamo messo il dipolo al posto del filo per stendere. Te l'accordi di lì, te lo fai rotativo, dipolo rotativo ti fai, l'allonghi. Oh no, era fisso, era fatto con un paio di cavi grossi da 4, da 6, non ricordo. Poi ce l'ha ancora buttato da qualche parte. Ma questo nuovo che è entrato oggi, l'avete sentito altre volte questo Carlo? No, quanto pare ha detto che era Bonorva prima, adesso è a Sassari. Modulava da Bonorva, mi ha detto anche il nominativo che non ricordo adesso. No, ma hai sentito, la prima volta che lo sento. Qualcuno da Sassari dice però lo sentirà, però ripeto, qualche anno fa è quando modulava, adesso l'ho ripreso da poco. Ho comprato un apparecchio nuovo, omologato. Sta usando questa antenna direttiva, come si chiama? Che è un diploma praticamente, alla 2.20. Stava arrivando 9.30, superava il 9.30, cioè 9.35 stava arrivando. A voi quanto vi arrivava? Sì, no, qua prima un segnale di 3, poi ha aumentato la potenza, è arrivato 5-6 modulati. Ripeto, però, perché qui forse mi passa sopra. La direttiva poi l'ha puntata lui nord-sud, quindi dati più o meno una regolata, sicuramente a te ti prendeva in pieno, a me no. E infatti, considerando che era in orizzontale, arrivava a buio, e poi ti ho detto, questa deve essere attaccata a me. Per essere vicino al buio, che in orizzontale, cacchio, era forte il segnale. Sì, ha detto, luna e sole, ha detto poi, magari c'è un bel palazzo, è libero, buh. No, vabbè, non siamo distanti tra me e lui, però considerando che siamo in polarizzazione invertita, lui orizzontale e verticale, vedi, quando c'era qua Fabio Matte, che saremo in distanza, senza dire di balle, 200 metri, non di più, io lo sentivo Santiago 9.5, c'era un dipolo di una mantova, però probabilmente io ero completamente negativo, zero, infatti gli altri all'altro arrivava 9.40, a me mi arrivi a 9, e siamo a 200 metri. E avanti il brecco. 5-6, ciao Roberto, buonasera anche a Francia, tutta la ruota, non so più che altro, qui è Giovane Rizzuto, operatore Claudio dal GPHB1, su Roberto, me lo date in controllo per piacere, buonasera a tutti, riprendi Roberto. Proprio più venti da parte mia, Radio 5, se vuoi dire che Radio E, ci faresti anche un piacere. Contatto 25 la Lampaglietto, con microfono Delta 5 e Medici 4. Benissimo, ok, adesso facciamo sentire a quello più lontano, avanti a te Franco, dagli un controllo al carissimo amico di Muros. Qua purtroppo il segnale è sempre basso, anzi oggi è anche peggio degli altri giorni, qui il segnale è 1, 2, non di più. Sì, tieni conto, io non sono con i watt dell'apparecchio, quindi se stacco sicuramente scendo anch'io ai tuoi livelli. Sicuramente siamo un po' negativi, io sono in basso, tu sei in alto, però non ti vedo purtroppo. Sì, Cosselle, Franco, dipende molto dalla zona, ma l'importante è ascoltarsi, come dicono tutti, e niente, da questo punto c'è altro, faccio riprendere a Roberto. C'è il carissimo Natalino, dalle parti basse di Sassari, avanti Natalino e Claudio. Saluti a tutti, dai, è arrivata la 50 e devo fare cosa qua, non posso rimanere. Mi dispiace, dai, ci sentiamo alle prossime, salutoni a tutti. Dimmi almeno come ti arriva Natalia a te, Claudio. non ci ho fatto caso, non stavo guardando, invece sono al computer qua stasera e da voi non sono riuscito a fare nulla. Sì, riprendo io. Claudio, Claudio, hai cambiato il microfono e hai adattato il più 4 al posto dell'SBS. Sì, finalmente mi sono riuscito, non poi mi tutta la mattina era stata cambiata, imparando a fare questi lavoretti, l'avevo calcolato male, proprio il più 4 è il modello primo che l'ho fatto, e ho anche un altro che me l'ha dato Claudio il barbiere, me l'ha dato il microfono, però quello non mi sono provato a mettermi, perché è più nuovo, più recente. Però lo sento, gli avevo sbagliato il cablaggio, infatti il fatto che l'ho fatto lungo, gli avevo fatto un errore, avevo sbagliato il, come si chiama, della portante, proprio come mi faceva staccare la portante, e finalmente sono riuscito ad adattarglielo, perché quando mi avevo il cablaggio io chiudevo la portante, però non insomma, la lancetta, e quindi era cosa, è andato male, perché mi funzionava con gli altri contatti, ed era impossibile che con questo non andava, perché è un modello raro del contact, è sempre un 25 bit, però c'ha una valvola di iniziazione più grossa rispetto agli altri contatti dry, e uno è in uguali, più c'ha il panne sotto, che qualità è ramondare, trattiamo che è un modello americano, come contact, non parlo, perché Nicola ha detto che quello che gliel'ha fatto avere a lui l'ha importato dall'America, questo, quindi. Sì, sì, no, sta andando bene. Non so se puoi ancora alzare un pochettino, fai una prova ad alzare un attimino, perché teoricamente da parte mia potresti alzare un po' il livello. Sì, allora, c'ho il mic gain che l'ho a 8, lo provo a portare a 9, adesso l'ho messo a 9, non so se ha migliorato qualcosina, lo posso anche portare a 10, volendo posso sollevare anche di più la potenza, sono adesso con 80 watt, se vuoi che sono le insegnate, farò sapere, quindi. Rimani sempre nella stessa direzione del microfono, perché sei arrivato al giusto livello, però forse giravi la faccia, non lo so, e ci abbassava un pochettino il livello microfonico. Sì, con la sigla mi sono mosso, dunque, adesso mi sono nella stessa posizione, cerco di non muovermi, dunque, non posso portare ancora di una stacca a 10, fammi sapere se va bene così, o se vuoi fare anche una prova a 10, vedi un po' di regolarmi, dunque, così me lo scrivo a quando la devo mettere, perché c'ho un casino di radio e ognuno c'è la sua regolazione, ho davvero dei cognitini che faccio, mamma me li butta, perché sono un po' disordinato e fammi sapere se va bene così o se mi devo portare a 10, quindi. No, va benissimo così, non lo toccare, tenete la distanza microfonica alla bocca uguale come se adesso, va perfetto. Tu lo sai cosa fai per scriverti la posizione, ci metti quel nastro da carrozzieri con l'incarta e gli scrivi in posizione numero 5, numero 6, per dire se c'hai tuni, magari gli metti anche il numero, il livello del tuni, del potenziometro, non sbaglio, gli elenco lì sotto e non c'è bisogno di mettere bigliettini e bigliettacci. Ok, vediamo, forse c'è qualcuno che vuole entrare, avanti che vuole entrare, nulla, forse qualcuno che ha sbagliato, avanti a te di nuovo Franco. Sì, sì, ho sentito anch'io la bussata, è una bella bussata anche. Oh Claudio, puoi aumentare qualcosa o sei già al massimo come segnale? Come potenza? No, Franco, io posso aumentare volendo, aspetta che aumentiamo di qualcosina, no, però non so niente, Roberto, quindi arriverò molto più forte del solito, posso aumentare, ora sono portato 104, aspetta che mi vado con un voltmetro, così, ecco, così sono con 104 di potenza, Franco, posso aumentare di più, non ci sono problemi. Troppo compresso. Ha peggiorato la radio però, ne perde la radio. Ha aumentato leggermente, non tantissimo, però la radio ne peggiora. Già, poi ho passato appena appena il mic gain, ho passato, perché non mi manca ancora forte, mi sono passato un po' col mic gain, forse ha migliorato qualcosina, riprendi? No, no, è meglio prima, con 80 watt era la soluzione migliore alla radio. Già, allora mi riporto come ero. A parte ti detuffa la voce, la qualità della voce la peggiori tantissimo, poi stai saturando, proprio stai mettendo in crisi lo stadio dell'amplificatore, per cui lascia stare tutto come era prima, tanto 80-100 a me non è cambiato niente, sempre 9-20, eri ai 9-20, per salire dovresti fare da 80 a 200 per vedere una differenza importante, per cui lascia stare così 80, a parte mia va benissimo, non ci sono problemi, perché è inutile salire il segnale e poi deturpi la modulazione. Ok, lasciamo un attimino di bianco, vediamo se può entrare qualcuno, se no riprendi tu di nuovo Franco. Ok, e Claudio è andato nel QRX? Boh, è entrato un secondino, ha salutato, poi non lo so. Si dice c'era anche Fabrizio, io Fabrizio non l'ho sentito. Vediamo se c'è ancora, Fabrizio ci sei? No, negativo. Claudio, voglio dire, stai uscendo in bicicletta? Sì, questo è il freddo, sì, ho fatto un giro due giorni fa, adesso in questi due giorni mi stavo mettendo a posto per il conto, come stavo, perché questo me l'hanno regalato al compleanno, un mio amico che vive a Teramo, ho capito, e facendo che può mettermelo per il posto, ho capito, perché me l'ha venuto con la lucetta della fulminata, ma poi c'è cosa che ho visto, non mi è mai sistemato, e questo è un uomo di... contento di questo contact perché il mio prezzo è 25 valvolari e poi c'è un altro contact che lo si può scegliere il modello più frequenza, poi sono i 35 sempre il contact della Lafayette, il 35 modello, sì, che ci sta uscendo molto spesso, anche sto facendo più che altro allenamento in salita perché per migliorare devo fare molte salite, come mi dicono i miei maestri, perché ci sono ad esempio dei corsi di ciclisti che vanno molto a fondo, quando la stagione riesco sempre con loro, mi danno sempre dei consigli per poter migliorare sempre, capite? Quindi sì, adesso dovrei uscire, credo domenica, mi faccio un'altra sgambatella domenica, vediamo che cosa, se non viene fuori, adesso mi stavo dedicando di fare la radio, ho visto adesso che non si sta mai la perfezione, questo bellissimo cosa, perché il cosa che mio preferito è proprio il valvolare, mi sono sempre piaciuto, ecco perché ero un mattino, cioè da quando ero piccolo, capito, modulava sempre con questo, e mi ho preso di questi apparati qui, capito, hai di questi 25 tipi, c'ho altri due cosa, questi modelli di questo, un 35, un altro modello va più vecchio, che però non li uso, quindi, perché sono un babbo, capito, ci prendo molto, molto radio, però il più che mi piace usare, qui c'è 23 cose di questo, quindi Roberto. Sì, no, è bella radio, anche se devo dire quella di ieri è superiore come modulazione al Sommercamp, quello che ho utilizzato ieri, alla fine mi piace di più, più naturale e cinge di più. Lo so che quella spinge di più, c'è anche un'altra radio che spinge molto, ma molto più forte di quel Sommercamp, c'ho un unico datore base, che è un sommergibile, che esce bene per quello, che lo posso dire tipo radio è con una radio su plus quella, altra radio, c'è un unico che è comprato da poco, quella, come stavi dicendo ieri sera, sì, lo so che con radio escono meglio di questa, però io lo so, ce l'ho più così per collezione, capito, questa, perché mi piace usarla, qui sono 23, la posso cambiare le chiacchiere con voi per fare qualche DS, qui sono le frequenze vintage, va più per bene, questo, perché io sono sempre affascinato, gli apparati unico, gli apparecchi a valvole, insomma, e allora faccio riprendere a Franco, riprendi a Franco. Ah, registrato. Sì, poi mi direi se stai facendo DX di questi tempi, dai, in questo periodo. Avanti il break. Ok, ciao Franco, ciao Roberto, ciao Claudio. Io vi sono andato per salutare e vi lascio subito perché va nazionale. Per cui va bene così. Santiago 7 per te o Claudio, va benissimo. La radio è buona, non c'è problema. Vai Claudio. Sempre faccio l'OBS, sempre in giro Sì, capo, intanto saluto cordialmente, lo ringrazio per i saluti a Giulio, buona carica, buon tutto e fate sentire, ok? Avanti, Roberto, per i saluti. Sì, stavo aspettando per salutare a Giulio, ben sentito, buon tutto, dai. Buona carica, se vuoi rimanere qualche minuto, se c'è disponibile, ci fa piacere. Avanti a te, Giulio. Ok, no, ero di passaggio in questa stanza, ho acceso, vi ho sentito e sono voluto entrare per salutarvi, ma devo scendere per cenare, dai. È appena arrivata mia figlia dal lavoro, per cui adesso si cena. Ci sentiamo, grazie comunque per me avermi fatto entrare, ci sentiamo alle prossime. Ciao Roberto, ciao Franco e ciao Claudio, salutoni a tutti e tre, ascolto il finalino ancora e poi dopodiché chiudo. Vai Franco. Scusate, c'è una bassa. Ehi, saluto io, ciao Giulio, ben sentito. Adesso si sta un po' ripopolando, sono andato anche ieri, avanti ieri, lo stesso, qualcuno in più c'è come frequenza. Già lo sai, quando vuoi sei sempre ben accetto Giulio. Ciao, buon tutto e buon proseguo di serata. Avanti a te Claudio. Sì, questo è il Roberto, sì, saluto a Giulio, sono contento che lo risentito, dopo visto che sei così affezionato, prova a cablarti un MB più 5 in modo che puoi correggere leggermente le tonalità, così ti dai, diventi il top di modulazione. Ma io non lo so se si può mettere, ho provato con l'altro con l'altro 25 tipo diverso da questo, che non sono quasi esteticamente perfetto, c'è la valvola della recensione leggermente più piccola, che in pratica quella allora dell'altra volta che quando abbiamo staccata perché li stavamo provando, siccome non andava a 5 watt l'apparato, Roberto, non andava a 5 watt e qui avevo scoperto che erano gli spettatori come era collegato al lineare, e quando l'ha collegato alla prima, la prima come se fosse un adesso praticamente mi dava sui 3 watt per mantenere 4 modulati, abbiamo detto, dovevamo identiche connessioni, tu non devi fare altro che copiare le stesse connessioni come le collegate nel più 4 le metti nel più 5 e in più c'è il controllo di tono, puoi regolarti, attenuare o aumentare le tonalità che ti interessano. Sì, perché convinto, io stavo guardando, mi voglio comprare un parler super sigle tipo, mi voglio comprare di quello che c'è un po' forte, che c'è qualcosa di più rispetto agli altri parler, più che mi sa uscito in più e rende bene quella del microfono, perché l'ho sentito all'UCP qui in frequenza e spinge, me lo voglio comprare, costa su 130 euro e come per non costare, però non so se si può attaccare, Roberto, capito, perché manco se lo compro me lo vado a fare per un'altra radio, perché la radio perché mi piace troppo per valvolare, poi ovviamente tutti i discorsi, è proprio la modulazione, perché l'iniziazione, il resto la radio va bene, però tu mi garantisci che il 5 è preciso al tuo 4, quindi se io lo metto, se li faccio gli stessi, come si chiama, se non è stato manomesso sono identici, più 4, più 5 e più 9 sono identici, cambiano soltanto uno c'è il controllo di tono, il più 5 e il più 9 c'ha l'eco e bassa e lo strumentino c'ha il più 5, l'indicatore di modulazione, i microfoni se non sono manomessi sono identici, infatti qualcuno quando vuole usare lo stesso microfono su diverse radio si fa le connessioni tutte uguali dietro, interviene da dietro il pannello del baracchino e li fa tutti uguali, in modo comunque con la stessa radio e con lo stesso microfono puoi utilizzare la stessa radio, come ho fatto io col patch, e c'ha la stessa connessione della LAN 48, ma prende attacco. Il Rose invece è diverso, e il Midland vabbè c'ha 6 puli, cara. Tu hai 4 puli l'attacco. Sì, sì, a 4, Robe, a 4. Infatti io non sono molto di metterci più 5, perché questo rende, però se ne so, se mettono più 1 in più, perché vabbè, i metti 20, cose non hanno molta differenza, però mi posso regolare il tono, e lo passo avanti sempre, a del tono, e qua tutto è rotto, perché la voglio migliorare, adesso non migliorata parecchio, perché so che mi sento che stanno bene, sono veramente molto contento da sera, perché i controlli però si fanno monitorare tutti, infatti come chiedo di più degli altri, perché tu c'hai di questi meccanismi, quindi puoi dire come sta andando la modulazione, insomma, usare i propri controlli al millesimo, capito? E questo dato è questa cosa, la vuol dire che se sta andando meglio rispetto a come ero ieri, ho fatto dei grandi progressi, dei grandi passi avanti, però se ci metto il più 5 lo so, rende molto rispetto a questo, infatti adesso voglio vedere, sì, è comunque c'è gli attacchi a 4, e c'è sempre gli attacchi a 4, quindi... Sì, va bene, vediamo se è rientrato Franco, avanti Franco, ci sei? Sì, capo, mi stava ascoltando, sì, ho finito, grazie, scusate per la massa. Io sto guardando invece, c'è in vendita sul mercatino su Facebook, un bella Static D104, praticamente non so, di anni 60, no, 70 forse, è un microfono a tavolo, in verticale, addirittura c'ha, diciamo, l'EPTT, ce l'ha sulla piantana, dai, sul gambo del microfono, molto bello, se ti capita guardalo su internet, avanti Robè. Sì, mi sembra di averlo rilassati, che sono degli ottimi microfoni, all'epoca erano i più conosciuti, erano insieme ai Tannen, gli Shure, erano i microfoni più comuni, dai, americani, originali americani, eccetera, eccetera. La Static faceva il Diavolo Rosso, mi sembra, Red Devil, se non sbaglio, ce l'aveva un amico, un buon microfono, però era da Palmo. Sì, mi ricordo, si trova ancora, ho visto in vendita, cioè, no, questo è proprio da tavolo. Esteticamente molto bello, molto old, antico. Avanti ancora, Claudio. Non ho più quei microfoni, sì, io lo voglio per ascoltarlo, perché quel tunnel che ha dominato tutto il super chic, è un microfono ottimo, però costa un po' di soldi. Visto che c'è la possibilità di un più 5, ne hai diversi, si fa la prova con quello, perché non è detto che se metti il tunnel si adatti perfettamente a quel tipo di radio. Non è detto, perché avevamo fatto l'altro giorno, Claudio aveva la prova su un apparato suo, diciamo, di un certo livello, ha provato il tunnel e l'MB più 5, e ti posso dire, anche se io sono grande estimatore dei tunnel, su quel tipo di radio andava meglio l'MB più 5. Il tunnel era troppo rumoroso, nel senso dava troppo rumore di fondo, amplificava esageratamente, per cui non era paragonabile al coso. Il più 5, pur essendo un microfono molto più economico e più scarso, diciamo, però su quel tipo di radio si adattava meglio. Per cui io direi, devi buttare i soldi, a meno che non lo vuoi fare come investimento, però parlando di 130 euro per un microfono, sinceramente c'è tanto di meglio. A quel punto ti vuoi un microfono di nuova generazione, equalizzato, eccetera, e ti costa nuovo quella cifra lì. Ok, di nuovo a te, Franco. Roberto. Avanti per Roberto. Ehi, Cristian, stai innescando? Io ti ascolto con un innesco sotto. Avanti, Roberto. Sì, per un po' non avevo neanche riconosciuto il segnale 8, però non si capisce niente di quello che dici, Cristian. È tutto un suono rimbombante, una modulazione rimbombante. Sembra che stai parlando dentro un tubo, non per dire, proprio dentro un tubo si sente questo soffio, boh, non so dove sei, a casa o dove sei? Sì, a casa, è quello che fa fare, davanti. Tu sei a Filigheto, mi hai detto, così? Non è possibile che arrivi così basso, Santiago quasi 8 sei, però la radio è sporca, brutta, prova a cambiare microfono, a fare qualcosa, Crista, ieri eri in macchina, vabbè, ma ti ascoltavo benissimo. Vediamo se sono io in difficoltà e se Muros mai riesce a tirarti fuori. Lo ascolti, Claudio di Muros? No, negativo, sono a Santiago Zero, riesco a sentire la voce, solo quando il volume è maledetta. Adesso ti sono abbassato il segnale, sei 7 Cristian, da 8 sei sceso a 7. Come ti arrivate, Franco? Prova Cristian. Bassissimo, segnale 3, la radio adesso è 3. Però non hai l'innesco. Che antenna è? Vale, è troppo bassa. Come stazionaria ne hai? Quindi neanche tanto, è strano perché siamo vicini, anch'io, vabbè, l'Oculetto è una zona bassa, io non ho l'antenna sul tetto, quindi di conseguenza ti ascolto male per quello. Però Roberto in alto ti dovrebbe ascoltare a bomba lì. No, ma strano, se lui è all'Oculetto, c'è Torino più in su, quelle zone lì, adesso non so lui esattamente, a Torino mi arrivava, diciamo, oltre 9.10, 9.15, anche 9.20, poi si attaccava, saliva molto di più. C'aveva una, non mi ricordo che antenna era, non era una Malta, ma una Simil Malta, ma non mi ricordo, Superstar, comunque strano che arrivi così basso. Dimmi poi, in ricezione come mi ricevi a me? Santiago 5. Scusa, non è possibile. Andiamo, andiamo, cazzo. Beh, vediamo con Luca, che Luca è in alto. Come lo ricevi a Cristian, Luca? Sì, che lo sento. E quanto l'ascolto? Vai Cristian, prova. Sì, sul più, cioè praticamente sul davanti al 3. E quindi lo ricevi più basso di me, Luca? Più 30, Ah, Luca è più 30. Davanti al 3 è più 30. Ho capito, più 3. No, dove te trovi qui? Arrivi bene. Luca, sei a casa tu? Io sono qua alla Terroce. Ah, infatti, come mai c'è tutta questa rifredda? Io qua lo sento molto basso, segnale 2-3. No, arrivo a fondo scala quasi qua. Vuol dire che c'è il canale lì aperto, capito? No, pensavo che fossi a casa tua, Luca, quindi sei dalla tua fidanzata. No, no, come non detto, per cui tu sei molto più vicino di noi. Sì, no, arriva benissimo. Come vuoi arriva, dai, più o meno. Bene, dai, facciamo riprendere anche. Ma Claudio, comunque quel microfono con la statica è in vendita a 100 euro, credo che sia la zona di nel Lazio. Ci siamo qualche settimana, non so se si parla, è molto bello. Avanti Claudio. Santiago 2, Radio 5, detto, ma come fate lui? Per me è impossibile, cioè io per ricevere uno deve superare 7, se no non riesco, cioè di correre è talmente alto da me. E adesso per dire Cristian, lei si è a superare, no, sì sì giusto, lui Cristian, a superare il 7, se no io non riesco a sentirlo, cioè un minimo 6 io di QRM, 2 è impossibile, cioè sono senza antenna io per arrivare 2, fruscio e basta. Comunque prendo tornando al discorso dei tanner, Claudio, stai molto attento soprattutto quando spendi cifre così importanti, perché molte volte sono manomessi, ne tolgono le capsule, le tolgono, ci mettono un'altra capsula, poi vai, ti troverà sorpresa, ci vuole gente sicura, io direi, se cercarti quel microfono, prendilo qua in Sardegna, mai lo vai, lo prendi, lo provi, lo guardi, perché se te lo spediscono e poi magari ti mandano un bidone, lasciamo qua, ci hai buttato i soldi. Di nuovo a te Cristian, vediamo, non lo sento qui, ci sei Cristian? Vai di nuovo a te Franco. Sì, forse ti ha allontanato, ha chiuso, non so. Dai, io vi saluto, saluto comunque Luca che è appena entrato, che non l'ho salutato. Un abbraccio da parte mia, saluto a te Roberto. Claudio da Muro, poi mi saluterai Antonio quando vai andare in bicicletta, mio cognatino diciamo. Saluto Cristian, ti all'ascolto, chi ci è rimasto? Spero di non aver dimenticato nessuno. Avanti Roberto. Io ciao Claudio, ben sentito, dai. Ti auguro buon tutto, dai, anche io rimanderò un pochettino, poi mangio qualcosa e poi cercherò di guardarmi questa partita sperando che sia una partita piacevole, dai. Ok, a te Claudio e poi Franco. Sì, sì, può essere Franco, dai, un super saluto, ti auguro una buona serata. Sì, non ho più la riguarda l'Antonio perché sono un bel po' che non l'ho più visto, non l'ho risentito perché ho visto anche il suo trauma che non fa molto pure praticando ciclismo, ho visto perché sta facendo poco ma è fatto con l'amore, però non ho la possibilità di vederlo, glielo dico, mi ha capito di cosa ho scoperto, ho fatto il radio, vedi un po' come piccolo il mondo, sì, e comunque c'è quello saluto, ecco, e niente, sì, ti auguro una buona serata. Alla prossima, Franco, buon correttivo, buon tutto, buona carica quando la fai. Perché il punto del discorso è un tanno, perché sì, infatti non è proprio fatto che vuol dire. Ciao Fra, alla prossima. Ciao, ciao. Non dico perché un attimo. Non ho fatto alcun altro perché sono più intenzionato a rifugiarlo, a dire la verità, adesso voglio riflettere un po' perché come ho detto tu, una cifra enorme, c'è su un'altra radio, c'è su un soldi, e capito, e vengono a valutare la cosa e vedere un po' perché avere il microfono e averlo, però un po' come ti dicevo tu, ti tolgono le capsule, tutte queste cose qui, ad esempio, perché non si può, non posso contattare il venditore, perché io voglio vedere delle garanzie prima di farmelo spedire, cioè il medico se può smontare, come vedere la capsula, farmelo vedere funzionando, se c'è radio, questo, farmelo vedere con la radio sua funzionando, ma non glielo sono qua a parlare perché sa cosa sto chiedendo anche e voi mandare il super saluto Franco Raro, ok, alle prossime allora, quindi. Vabbè, Franco è andato via, ma c'era qualcuno che stava parlando sotto, avanti che vuole entrare. Quando stai parlando tu qualcuno ha bussato, dai, avanti che vuole entrare su 10. Sulla Cristian ci sei ancora? Su, sono scomparsi tutti, chi è rimasto? Quindi sono io e tu siamo rimasti, mi pare. Sì, sì, sì, non è vero, sono magari, oppure stava provando qualcosina, qualche microfono, forse, perché c'è sempre qualche uno che prova qualche parte, penso che l'abbiano fatto per mettere, insomma, sia così. Rispetto a quella cosa del panel, che ti stavo dicendo, che non so cosa mi consigli di fare tu riguardo a questa cosa, io ti consiglio, visto che ne hai diversi di microfoni, prova le Mavic più 5, io sono sicuro, già è, non dico ottima, diciamo sufficientemente buona questa modulazione, non ti do un voto altissimo, però più che sufficiente come qualità di emissione. Ci metti il 5, così riesci magari a correggere qualche tono, attenuare o a esaltare qualche tono, sono sicuro che riesci a uscire molto meglio. Per cui è inutile spendere tutti quei soldi, se poi mi dici ti piace quel tipo di microfono e te lo vuoi conservare perché è sempre un investimento, tanto di cappello. Non dico niente, però considerando che quello che ha chiesto 200 euro per un microfono ti compri due MC60 e ti rimangono anche i soldi, tra parentesi, deve essere, per spendere 200 euro deve essere con la confezione originale in scatola originale mai usata, secondo me 130 euro anche se è un bel microfono sono tanti per un Super Siderick, che sinceramente non li spenderei mai, troverei mai qualcosina mai più economico, mai con qualche segnettino di vecchiaia, però c'è sempre un microfono dell'epoca. Perché bisogna stare molto molto attenti, li stanno molto manomettendo, magari se qualcuno le ha cambiato la capsula, si è recuperato il circuito, io ne ho uno che l'hanno modificato e hanno fatto delle cose strane, dai, e un altro vecchio Tanner, per cui bisogna stare molto attenti. Sì, si capa, perché se perché tu più lunghi, quello grigio, però lo prendono come quello. Come se diciamo tu, però le Tanner, perché capito stiamo parlando di radio americane, perché tutti i contact sono americani e infatti qua, quindi se è roba americana mi voglio mettere un microfono americano, giusto per avere tutto abbinato, perché mi piace un sacco la radio americana, capito, e ci tengo molto anche, soprattutto i valvolari, perché c'è un punto di funzione fantastica, c'è zero di QRM, ci vuole la bomba, tu mi sei quasi 9.30, da 9.25, radio super 5, quindi poco fa, c'è un contatto Claudio Parliero, lo stiamo ascoltando tra 5 e 40 con lo Skype, e poi lo stesso, non mi interessa, non mi pare che era, e mi è arrivato così forte il radio per questa, perché la funzione è valvolare, capito, è fantastica, no? Ieri sera, amico, mi ho cambiato l'altro, mi farò un QRM, come è stato un software, quindi questo è proprio il genere, mi fa ascoltare, quindi parlano bassi, addirittura su di un acquisti, un po' da che la soglia è un genere, però sentivo un po' anche, non capivo quello che stava dicendo, però io sentivo il fuscio della voce, capito, e rispetto a un'altra radio che conoscevo, per me di valvolare sono i migliori, per il mio gusto, quindi rispetto a questa cosa del Tanner, devo valutare la cosa, perché non sono come ho detto prima in investimento, è una cosa che rende bene sulla tappa la radio, come si dice, la cosa più estetica la radio, anche perché quello proprio è la perla della radio, capito, mi piace, mi sono piaciuto a quello, però come si torna al discorso tuo, 130 euro sono 130 euro, vabbè, devo valutare, perché io vado che sono scemo che spendo questo, quest'altro, infatti, per me è questo che sono un po' per acquistarlo, perché come dici tu me lo possono prendere anche con lo strumento intelligente, capito, se devo valutare, non ti faccio vedere che sono un po' perché magari se no qualcuno ti ascolta e se lo compra, magari, e poi mi viene a me, perché ci tengo a farlo io, quindi tengo la cosa un po' segreta, capito, quindi. Ma qua già si trova qualcuno, c'è a Sassari, che c'ha davanti il Riccardino, si può anche dire a lui, se il babbo, a Sergio, se ha intenzione di liberarsene, magari se gli interessa qualche scambio, se avete qualche doppione di qualche radio, eccetera, perché diciamo ci sono tante opportunità, ma qualche d'un altro ce l'ha con il microfono, basta chiedere un po' di radio, se avete a spendere, fatelo arrivare là fuori, poi magari te lo fa vedere usandolo e poi ti spendisce un'altra cosa, e a stare molto attenti, che poi viene male a rispedire. E quello, ah no, ma qua io quando controllato, era a posto, tu qua, là. E te quando ce l'hai, lo guardi, lo provi, lo attacchi alla radio e dici sì, va bene, tieni i soldi e finisce lì. E lo trovi, secondo me, molto di meno di 130. È un prezzo, detto, per spendere quei soldi deve essere immacolato, come che se stai uscendo dal negozio. Ma siccome stiamo parlando di un microfono che ha 50 anni ed oltre, anche oltre i 50 anni, le capsule sono un pochettino, è un altro parlante, parole povero, la capsula. Per cui la, anche se sono ceramiche, hanno una grandissima resistenza, però deve avere poi se effettivamente funziona come deve funzionare. Ma di questi l'hanno tenuto in un posto umido, in un posto secco, non lo so, qualunque problema si può generare, magari se non è conservato in un ambiente ideale. Dai, avanti a te di nuovo. Sì, magari no, ma poi quando uno ci tiene, è un appassionato, è geloso, è tipo quando c'è un collezionista di monete, di francobolli e cose, se c'è doppioni magari uno se ne può anche disfare. Comunque lasciamo un attimino di bianco, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare, avanti su 10, che avanti, c'è qualcuno che forse non riesce a uscire di là, avanti, chi è che chiama? Cristian, ci sei ancora? C'è un segnale abbastanza forte, ho sentito qualcuno chiamare. Ok, di nuovo a te Claudio il mic. Sì, diciamo, così quando c'è un'antenna fissa arrivava male, buh, che sarà? Sì, sì, anche a me ieri arrivava bene, per essere in macchina, mi arrivava più a cantare di 5 e 6, ma perché stavo usando il sommer, tanto qui avevo un 2RM a 3,5, 4, e qua invece con il taglio 0 proprio di 2RM, soltanto sul canale 1, 2, 5, la radio è praticamente allineata, tutto il resto è proprio nuova di gente, come tutti i contatti che possiedono, non soltanto il 1 per mettere a posto, il più giusto, come si può subire come un momento, e più frequenza, però penso che già non si capisca di che radio sto parlando, e quello lo devo sistemare, perché a terra di qua, vuole che sono in uno fatto dei lavori, dunque non è recensione, però non trasmette, c'ha anche lavori da fare, è bello, bellissima radio americana, mi piacciono molto i contatti, hanno conservarle in modo adeguato. E l'altra volta cosa è successo con le radio con l'umidità, c'era caduta acqua, bisogna stare attenti a queste radio qua, soprattutto quando sono così vecchie. Sì, assolutamente, e le due gatti babbo le vogliono portare la linea. sentire la, questa radio liscia, senza niente, stacca tutto, cioè diretto senza l'aiuto. Sì, sì, stacca tutto, però se c'è un problema, perché se non ti lascio quel ragazzo di cartello sta mettendo la frase con te che l'ha fatto l'alta luma, perché con lui è Ok, no, ti ascolto perfettamente, sei quasi 9.10, poi picchi arrivi a 9.10, da quasi 9.20 sei sceso a quasi 9.10, 10 punti hai perso, la radio guadagni qualcosa, qualitativamente è un pochettino più naturale, non è leggermente compressa, ti dico leggermente, poco poco si sentiva, con un baracchino normale non neanche te ne accorgi, però ascoltandoti con una radio questa, ma con uno speaker esterno, diciamo di qualità, si sente un po' la differenza, però hai guadagnato qualcosa, io sono sicuro se quella radio, proprio con le MB più 5, regolando i turni, quella carenza che ti toglie quando attacchi il giocattolino, diciamo la stufetta, te lo correggi, riprova ad attaccare di nuovo, fammi i due passaggi e ti dico cosa cambia. Niente, cioè è impercettibile la differenza, tra 3 watt e 30 watt non metto differenze qua. Ti saluto, grazie del QSO, saluto anche gli eventuali qua amici su canale 10 in ascolto, QRT da parte mia, ciao ciao!